Tra marzo e giugno del 2020 in Regione Emilia-Romagna sono state perse circa 37.000 posizioni dipendenti e la quota femminile ha riguardato circa il 60% delle donne. Complessivamente comunque molte donne hanno perso il lavoro e sappiamo anche, perché le abbiamo ascoltate, che tante donne temono di poterlo perdere quando gli ammortizzatori sociali non saranno più disponibili. Quindi un livello di attenzione che deve continuare ad essere molto alto. Sappiamo che il lavoro femminile ha un grado di precarietà e di instabilità che è molto più elevato rispetto al lavoro di colleghi maschi, ed è un lavoro che spesso è messo e posizionato su alcuni settori in particolare. Non voglio parlare di una vera e propria segregazione, ma in alcuni casi anche di questo si può parlare, per cui sono i settori che oggi sono più in difficoltà, penso a quello del turismo, al commercio, ad alcune tipologie di servizi, quelli che normalmente sono più, come dire, frequentati, praticati, dove le donne trovano più spesso la loro occupazione e che sono stati quelli, ahimè, più penalizzati. Abbiamo potuto vedere come le donne siano state quelle, un altro dato significativo, che nei primi mesi della pandemia hanno accettato uno smart working che forse in tanta parte è stato uno smart working non propriamente volontario. E in questo senso vediamo che sono il 58% le donne che hanno aderito a uno smart working, insomma un po' di necessità, almeno per tanta parte di queste donne, a fronte del 23% degli uomini. Quindi abbiamo sempre dati che segnano delle differenze. Le principali azioni hanno riguardato e hanno tenuto davvero un occhio molto attento al sistema dei servizi educativi e dell'infanzia. In questo senso i centri estivi hanno rappresentato una risposta importante, perché hanno comunque avuto la finalità di aiutare una socialità che era mancata nei mesi precedenti, ma soprattutto un supporto dopo mesi di lockdown duro alle famiglie e a chi aveva necessità di poter riprendere almeno parzialmente il proprio lavoro. Complessivamente le risorse che sono state dedicate a queste azioni superano gli 84 milioni di euro, quindi parliamo di cifre importanti. Come assessorato pari opportunità abbiamo messo in campo due bandi di cui vediamo i concreti effetti a partire da questi mesi, e come accennavo questi bandi hanno riguardato i temi del lavoro e i temi del contrasto alla violenza, la promozione di una cultura di genere paritaria. Il nostro è un impegno che è rafforzato perché crediamo fortemente che le donne davvero possano sempre di più dare un grande contributo alla nostra società, ma possono anche dare un contributo molto significativo in questo tempo così difficile ad una ripresa economica di cui c'è molto bisogno, ed una ripresa economica che dovrà avvenire secondo paradigmi diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto. E naturalmente questo sarà possibile a fronte di un rafforzamento significativo e rilevante delle politiche di conciliazione e di welfare, che dovranno davvero avere sempre di più elementi di accessibilità, di prossimità e anche di territorialità diffusi, per creare quelle condizioni per cui davvero tutti debbano e possano beneficiare degli stessi servizi sul territorio. Parliamo di equità e anche su questo siamo impegnatissimi e continueremo attraverso tante azioni concrete che presenteremo.